Venerdì 3 dicembre alla Biblioteca delle Donne si terrà l'incontro In Salvo, l'arte delle donne contro la violenza. Siamo qui per parlarne con Anna Pramstrahler della Casa delle Donne. Ciao Anna, bentornata ai microfoni di Radio Città Fujiko. Salve, ciao a tutti e a tutte. Allora, Anna, innanzitutto di che cosa si discuterà all'interno di questo dibattito? Allora, il festival ha sempre in sé tanti eventi di diverso tipo, tra cui anche artistici, diciamo, non sono solo politici, non solo dibattiti, ma anche tanti eventi culturali. Quindi abbiamo pensato di organizzare questo evento insieme alla Biblioteca dell'Assemblea Legislativa, perché è anche all'interno di un'iniziativa che si chiama Specialmente in Biblioteca, che è un insieme di biblioteche specializzate che organizzano eventi. Questo evento in particolare parla come le donne esprimono l'arte o la creatività legata alla violenza, che non è una cosa semplice, perché esprimere la violenza ci vuole una presa di coscienza, una capacità espressiva e una riflessione sul come esprimerla. Quindi abbiamo chiamato persone molto diverse, tre artiste molto diverse. Una è Antonella Libita, è la responsabile di un'agenzia di comunicazione, si chiama Kitchen, e ha lavorato tanti anni sulla creatività e sulla espressione dell'arte delle donne, no? Arte femminile. Un'altra è Anna Cecilia Illa, farà vedere le sue opere con delle slide, è un'artista che collabora ad Ozza, al festival, insomma ha fatto tante cose per donne. E poi Benedetta Iandola, che è una donna molto conosciuta a Bologna, anche lei fa parte dell'associazione Donne d'Arte ed è impegnata sulla tematica. Tutto questo è coordinato da una critica d'arte, si chiama Sabina Chinassi. Quindi una serata aperta a tutti e tutte, qua al Centro delle Donne. Basta avere il Green Pass, questo vi avverto, perché è obbligatorio, tutti gli eventi devono avere la tessera del Green Pass. Serve qualcos'altro per partecipare? Bisognerà prenotarsi? No, è libero, chiaramente con tutti i termini di sicurezza, mascherina e Green Pass, quindi partecipate tranquillamente. Penso sia una serata molto piacevole e di riflessione, e anche c'è anche una piccola mostra, perché abbiamo allestito una mostra con alcune opere di Benedetta Iandolo. Perfetto Anna, io ti ringrazio veramente per averci raccontato questo incontro mostra che, ricordiamo, si terrà alla Biblioteca delle Donne questo venerdì. Grazie ancora Anna. Grazie, ciao, arrivederci.